Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Sabato 1 settembre del 2018, benvenuti alle pillole del convento con Master Nick, Sandrino, Nadia e Mr. Dave. Un saluto festosissimo a tutti, questa volta vi ho gabbato perché non ho detto festoso ma festosissimo. Ecco, sei un'altra... come vedete tutti è tornato Mr. Dave. Sai tra l'altro chi è stata una persona gabbata dalla vita? Francesco Gabbani. Bellissimo. Cosa vuol dire? È una battuta, non può capire. Comunque, per chi non lo sapesse, le pillole è uno spazio controcorrente all'interno di una serie di informazioni standard che il mondo ci regala. Infatti, mentre tutti oggi, sabato 1 settembre, parlano del matrimonio Fedez Ferragni a Noto, noi, andando controcorrente come si confà la nostra rubrica, parliamo del vero evento della settimana, cioè gli 8 anni di amicizia tra me e Sandrino su Facebook, che è la cosa è la cosa più toccante. Ho messo mi piace. È la cosa che più interessa evidentemente al pubblico social d'Italia e del mondo. Infatti non lo sapete perché magari non avete seguito, ma il matrimonio di Fedez e della Ferragni non è andato a nessuno proprio per questo motivo, perché insomma erano tutti impegnati a festeggiare. Erano tutti concentrati. Gli otto anni di amicizia. Erano tutti concentrati a festeggiare l'amicizia mia e di Sandrino su Facebook. Tra l'altro vi ringrazio per aver fatto un selfie. Stiamo facendo i selfie nostri e avermi incluso. Stiamo facendo i selfie nostri. È bello il selfie nostro. Tra l'altro oggi mi sento ancora più bassa del solito perché qualcuno ha pensato bene di alzare l'asticella, di alzare ho visto che sfurgonavi lì attorno al microfono. L'hai alzato ancora di più. Allora, io ti dico che devi agire. Cercavo di abbassare Nadia, l'indice di gradimento. Ecco, no, perché comunque si chiedendo è tutto, di cosa stiamo parlando. Più che altro però io pensavo che è il microfono. Dicevo che è tutto un barbaro trucco per fare in modo che tu ti metta sulle punte, così mettendoti sulle punte porti il petto in pensavo fuori. Pensavo fosse un barbatrucco, come c'erano i barbapapà. Però notiamo il fatto che io ho cercato di aggiustare il tutto e poi mi è stato proibito con lo sguardo severo di Mr. Dave, che subito mi ha fatto così, come non toccarlo. No, volevo anche solo sottolineare che i barbatrucchi li possiamo fare solo io e Dave. Perché solo voi due? Perché siamo gli unici che hanno la barba. Hai capito? Però la Nadia ha i trucchi. Io ho i trucchi. Però la Nadia è tu, Harry. Quindi è un problema. Comunque io pensavo che volessimo parlare dell'evento dell'elettricista di questa sera, che ci ha colpito molto. Spiegato anche a me, perché come al solito io stavo lavorando quando avvengono le cose interessanti. Perché noi stavamo bambanando. Sempre. Cioè io mi perdo sempre tutto. È un bambanatore. Cos'hai detto che è bambanando? Ricordiamo, scusa Nick, che è una cosa sul bambo. Ci tengo a precisare che Nadia ha imparato un nuovo termine. Che è bambo? Ha iniziato a dire del bambo a tutti praticamente. A dare del bambo a tutti, saranno tutti contenti. Bambolotto. Definiscimi quindi bambo. Allora, perché ho imparato questo nuovo termine, che è appunto bambo. Sto facendo delle riprese velocissime. Esatto, delle riprese stabilissime. Rimarrà per i posteri. Assolutamente. Allora, praticamente durante la festa dei single di mercoledì 22 agosto, ho scoperto l'esistenza di questo termine, che è il bambo. Stai continuando a inquadrare il nulla. Fai te allora. È anche il bambo number 5. Il bambo number 5. Non lo so. No. Ed è anche fidanzato di Bambi. Esatto. Che invece è una no, è quella frase, che dice "I la bambo na na na na na I la bambo la la la bambo". Voglio ballare col bambo. Proprio quella lì. No, bambo a quanto pare è una parola non troppo carina da dire a chi non è troppo famoso per le sue doti intellettive. Ah, ok. Sì, solo che lei non l'aveva capito subito. Beh, che è un termine che deriva dalla natura e dalle piante, no? La famosa canna di bambo. Sì. Ah, sì? non l'avevo capita io, non so neanche se è una famosa canna. Dai, esco da fare una cosa, spegni il video, che stiamo facendo. Nadia è di strada, sulla canna di bambù sono un attimino. Ah, la canna di bambù. Di bambo. Allora, no. Però giusto, giusto per... Hai rovinato tutto. Giusto per... Perché è in ansia la prestazione, perché sa che deve... È vero, mi avete smorzata così. Avendo un video deve dimostrare le sue capacità. Esatto. Però comunque quella sera lì, oltre ad aver scoperto il significato di questo termine bambo, è stato coniato un nuovo termine, è stato coniato un nuovo soprannome per l'esattezza, che riguarda il nostro Sandrino. Sandrino quella sera lì si è meritato un titolo. Meritato. Vuoi dirlo te? No, dillo te, Diana, perché... Praticamente Udite. Tu sai già cos'è? No, assolutamente, casco dalle nuvole. Allora, è Sandrino Trenino. Sandrino Trenino, sì. Ed è stato coniato dallo stesso tipo che mi ha spiegato a me il significato di bambo. E Sandrino, vuoi spiegare perché ti ha chiamato, cioè, Sandrino Trenino? Diciamo, non ho ancora capito io perché Sandrino Trenino è l'intellettuale della serata, praticamente. Sì, sì, un grandioso. Esatto, anzi lo salutiamo, si chiama Dario, è simpaticissimo. E lo salutiamo e diciamo che ha lasciato un'impronta. Nel frattempo hai immortalato il mio sbadiglio. Sì, sì, c'era. Aspetta, che immortaliamo. È zoomato. Guarda. Ciao. I nostri numerosissimi fan. Questa sta puntando Sandrino. Questa ragazza è fantastica. È l'unica che ha dichiarato di guardare Pornhub. Praticamente l'unica che ha dichiarato. Grande. Lo dice in diretta. Dice, cazzo, guarda. Esatto, peccato. Ma hanno firmato la liberatoria per hanno firmato la liberatoria per la privacy? Ma non sappiamo. Le è arrivata via mail. Quella sera ci tengo a pensare che Nadia a un certo punto salutava tutti dicendo "Ehi la bambo". Ehi la bambo. Ecco. Queste sono tutte menzogne. Sono stati tutti contentissimi, tra l'altro. Io c'è stato un periodo che andavo al bar per sfottere il barista, il barman, gli chiedevo un bambascione fragolato. No, e lui mi guardava anche a me. E mi guardava male. Due, ne vuole due, con ghiaccio. Un bambascione fragolato. Stai saltando. Gli chiedevo un bambascione fragolato, lui mi guardava strano e dicevo: "Vabbè, ho capito, non è le fragole. Lo stai prendendo te? Fammelo senza fragole". Allora capito. Ma sai perché ti guardava strano? Perché il bambascione è la bibita preferita dei bambini. Abbiamo delle battute veramente. Beh, comunque anche stasera stiamo riuscendo veramente ma è molto la ripresa. Bene a non parlare di niente. È la ripresa che influenza. È la ripresa. Sì, ma che siamo stati ripresa. Che crea un po' di ansia da. Vabbè, abbiamo pure il drone. Il drone, bellissimo il drone. Sei proprio indronato sei. Ecco. Che fatto da me diventa Sandrone. Anziché vabbè, fantastico. Io volevo fare il passaggio in aria. No, ragazzi, a questo ragazzi, punto io dissocio, non vi conosco. Intanto è successo qualcosa. Sì, no, ci stanno ricordando che sono le 3 del mattino. I nostri 5 minuti di inutilità sono diventati 10, come benissimo. Al solito. E quindi a questo punto salutiamo. Salutiamo gli amici da casa, ovvero il mio telefono. A casa. Assolutamente sì. Salutiamo tutti coloro che hanno avuto voglia e tempo di festeggiare insieme a noi. Sono stati tanti anche in questo sabato e saranno tanti nelle prossime settimane. Sono proprio sicura che sarà così. Allora, buonanotte a tutti. Noi adesso torniamo fuori in pista a far feste e a salutare tutti i nostri festeggiati. Un saluto festoso a tutti. Ma esattamente cosa stai inquadrando te? Sono nato DJ. Fra l'altro, piace colgo il marchio, l'occasione piace per il notare una cosa, per far notare una cosa. Allora, questa taglia qua è la versione femminile della maglietta, ma se la versione femminile, perché è nato DJ? Cioè, l'accortezza c'è stata nella taglia, nel taglio del vestito, eccetera, ma non nel. Inoltre al tuo reclamo. Lo sto facendo adesso, la petizione online. Ah, ok, online. Se sostenete la mia petizione, per favore, mettete. Lo so, mandate un'email alla. Sosteniamo la tua petizione. Esatto, qui c'è tanta gente che vorrebbe sostenere. Esatto, e ci tengo a precisare che in realtà è tutto slegato. È sono, e poi c'è nato e DJ. Sono tre parole diverse che non hanno un senso. Scusate un attimo, ma visto che non ci stanno vedendo da casa, però stai inquadrando questo. Sai che cosa sono? No. Non sai che cosa sono questi? Sono allucinazioni. Quanto non roba. Potevo non potevo farla con i piedi. Scusatemi, però. È vero. Ricordiamolo che alluce in termine semantico è solo il dito del piede. Esatto. Questo è pollice. Però non potevo mettere. Sapete gli altri nomi delle altre dita? Certo. Pollulazioni erano. Erano pollulazioni. Le dita dei piedi, sai i nomi? Secondo dito, terzo dito, quarto dito, quinto dito. No, è vero. No. Ah, è vero, illice, trillice. Ragazzi, lo so io. Scusami. Illice, trillice, quarto dito, quinto dito. Esatto. È erudita. Sapete i nomi delle dita? Ragazzi, io ho scoperto da poco che si dice le dita e non i diti. Vabbè, quello ci sta. Come si dice 10 euro e non 10 euro. È più o meno la stessa cosa. Sì, dai, poi ci sono delle varie interpretazioni. Io direbbe queste cose, però le direbbe. Anch'io sarebbi d'accordo. Ecco, eh? Benissimo. A questo punto, Sandrino è sempre affascinato Sandrino, invece sì. dal logo della nostra maglia. Perché Sandrino sta cercando di riprendere il. Diciamo così. Vabbè. Anche. Ragazzi, mi ha fatto venire di 7. Ciao ragazzi. Va bene. Un saluto festoso a tutti. Buonanotte. Alla prossima. Anche da noi. Anche da me. Drone. Ciao Drone. Sandrone. È stato bello. Ciao da Sandrone. Buonanotte. State ascoltando Ristoradio Convento.